Come annunciato, siamo in collegamento telefonico con un esponente dei Movimenti per l'Acqua. Ciao. Ciao, ciao, ciao a voi. Allora, dici un po', insomma, questa sentenza che c'è stata oggi. Sì, è una sentenza molto importante perché ristabilisce sostanzialmente un minimo, direi, di democrazia in questo paese, perché dichiara incostituzionale e quindi censura del tutto il famigerato decreto di Ferragosto, che era quel decreto che aveva riproposto e reinserito nell'ordinamento giuridico italiano l'obbligo di privatizzazione dei servizi pubblici locali, che era stato abrogato dai referendum. E quindi c'era stata una palese violazione dell'esito referendario, anzi una riproposizione praticamente coincidente della stessa norma abrogata dalla maggioranza assoluta degli italiani e delle italiane. Oggi la Consulta, diciamo, per così dire, ha fatto giustizia e ha praticamente cancellato quell'articolo di legge, proprio dicendo che è in violazione della Costituzione, il cui articolo 65 disciplina appunto il referendum come uno strumento di democrazia diretta. E questo credo che sia, diciamo, un passo in avanti e che conferma quello che noi andiamo dicendo appunto dall'agosto dell'anno scorso, che appunto c'è un tentativo concreto di cancellazione dell'esito referendario perché andava a intaccare sostanzialmente quelle che sono le politiche neoliberiste che vogliono necessariamente la mercificazione dei beni comuni a partire anche dall'acqua. Questo come inciderà sui comuni? Come? Come inciderà, diciamo, sui comuni questa decisione? Beh, io adesso bisogna approfondire che conseguenze avrà per esempio sulle varie delibere. Penso solo alla questione della vendita di Acea qua a E Roma, certo, appunto. e che è una delle motivazioni, non solo così sbandierata dal sindaco e dalla sua giunta nelle dichiarazioni sui giornali o altro, ma anche nella stessa delibera si diceva che quella vendita del 21% e quindi la definitiva privatizzazione di Acea era in ossequio all'articolo 4. Ora questo articolo 4 non c'è più, quindi non c'è nessuna imposizione e quindi decadono gli alibi e le scuse che Alemanno and Company hanno sempre portato avanti. Ecco, credo che qua a Roma, ma io penso per esempio anche a Torino, Torino, amministrazione di centrosinistra, è stato il primo comune in Italia ad attuare questa norma nefasta, cioè l'articolo 4, privatizzando sia i rifiuti che il trasporto pubblico locale. Ora voglio vedere Fassino a dire che quello che ha fatto appunto la vendita delle quote delle aziende comunali è una scelta, diciamo, che rientra nelle sue potestà, visto che appunto lo aveva motivato dicendo siamo obbligati dall'alto. Ora questo obbligo non sussiste più e quindi bisognerebbe un attimo ripensare quei provvedimenti e quelle scelte. Perfetto, quindi diciamo che la battaglia sull'acqua continuerà comunque a avere gli occhi sempre ben aperti e a premere. Assolutamente, assolutamente. Oggi abbiamo, diciamo, un'arma in più nelle nostre mani, sicuramente, perché è stato smascherato un tentativo che è stato compiuto, diciamo, in modo così palese, ma anche in modo molto, molto più subdolo. C'è tutta la questione ancora sulle tariffe, sulle bollette, c'è l'autorità dell'energia e del gas che anche lì sta facendo praticamente un qualcosa di assolutamente truffaldino perché era stato abrogato il profitto dall'acqua e lo sta reinserendo sotto mentite spoglie, un po' la stessa cosa, diciamo, di questo articolo 4. Quindi la battaglia continua, però certo che abbiamo dalla nostra parte il fatto che c'è il massimo organo, diciamo, della magistratura italiana che ha detto che il referendum sostanzialmente va rispettato perché ha detto cose ben precise, cioè fuori l'acqua dal mercato, fuori i profitti dall'acqua. Perfetto, quindi un Ferragosto ribaltato, diciamo così. L'anno scorso è toccato a loro, quest'anno tocca a noi, in positivo per fortuna.